Grazie per il nome sull'intervallo alla signora Karin. Also dann vielleicht noch Deutsch sagen. Morgen Nachmittag wird ein Ausflug gemacht. C'è una gita, si fa, no? In das ethnografische Museum della Gente Trentina, ein sehr interessantes Volkskundemuseum, das also die ganzen Formen der ländlich-bäuerlichen Arbeit dokumentiert, was also sehr gut auf unserem Thema passt. Und eine sehr gute Weinkost ist auch dort. Das Istituto Enologico di San Michele ist 1875, glaube ich, ist dieses Weinbauinstitut gegründet worden, zusammen mit dem Klosterneuburger Institut. Und es lohnt dieser Ausflug. Und wer da mitgeht, möge das in der Pause dann der Signora Karin, die Sie ja alle kennen, oben im Büro sagen. Grazie. E come dice il titolo della mia relazione, l'oggetto delle considerazioni che farò è costituito dall'insieme delle esperienze organizzative e rivendicative sindacali del mondo contadino italiano tra la fine dell'Ottocento e il primo dopoguerra. Voglio dire subito che cercherò di dare nello stesso tempo conto di quello che è lo stato degli studi o no, delle conoscenze su questo argomento, ma anche cercherò in qualche modo di mettere in luce quelli che sono i problemi di natura storiografica che questo stesso argomento solleva, soprattutto i problemi che secondo me hanno ancora bisogno di un notevole approfondimento per arrivare a qualche certezza, per arrivare a qualche conclusione. Non voglio con questo dire che sull'argomento come tale regni soprattutto incertezza, però per un insieme di ragioni che risulteranno dalla relazione stessa, ci sono indubbiamente molti punti che ancora devono essere fatti oggetto di indagine storiografica. La premessa al discorso, la premessa alla ricostruzione storica vera e propria, io spero di non far torto a nessuno, l'ho messa nello schema, la premessa deve riguardare necessariamente quella che era la struttura del mondo contadino italiano. Io ho cercato di riassumere in pochi punti, richiamo semplicemente questa struttura del mondo contadino, perché la possibilità di cogliere le linee di evoluzione dell'organizzazione, di cogliere la stessa evoluzione delle rivendicazioni sindacali tra fine Ottocento e prima guerra mondiale, a mio parere è strettamente collegata alla comprensione della diversità interna della struttura del mondo contadino, formato da gruppi, diciamo, professionali, da gruppi di interessi molto eterogenei fra di loro, e che restano tali per tutto il periodo che noi esamineremo. Da un certo punto di vista è una fortuna per la ricostruzione che questa struttura sociale del mondo contadino italiano non abbia subito delle grandi trasformazioni, almeno tra fine Ottocento e prima guerra mondiale. Certamente negli ultimi anni del periodo che io considererò e in quelli successivi che io non considererò, cioè praticamente fino alla fine del decennio 20, la struttura del mondo contadino italiano si modifica notevolmente. Personalmente ritengo che lo stesso avvento del regime e il consolidamento del fascismo in alcune aree della penisola sia legato proprio a questa trasformazione. Il passaggio cioè dalla posizione contadina mezzadrile alla posizione contadina di piccola proprietà ha indubbiamente un grande significato per il formarsi di equilibri sociali, economici e quindi politici di tipo diverso da quelli del periodo iniziale. Quindi è una fortuna perché semplifica la ricostruzione il fatto che questa struttura non si modifichi, almeno quantitativamente se non nell'ultima fase. E bisogna anche dire, questa non so se sia una fortuna, ma comunque anch'essa semplifica il discorso, il peso specifico della popolazione contadina addetta all'agricoltura sul totale della popolazione italiana, anch'essa resta sostanzialmente immutato per tutto il periodo e conferma un dato molto importante, cioè quella ruralità predominante nella società italiana, che è la caratteristica dell'Ottocento, come dire, si protrae anche nella fase successiva, e si protrae condizionando non solo ovviamente il movimento contadino, ma il movimento sindacale nel suo insieme. Ieri abbiamo avuto una discussione molto interessante con il professor Pepe, in conseguenza delle sue argomentazioni. Io non ho detto perché allora, perché sarebbe stata un anticipare anche il discorso, ma se c'è una cosa, una prospettiva di ricostruzione che non condivido e che invece è tipica della storiografia che si occupa dei movimenti sociali in Italia tra fine Ottocento e diciamo prima metà del Novecento, è il peso secondo me eccessivo che viene dato a tutta la problematica del cosiddetto mondo operaio, e che poi, come dire, strutturalmente ha sempre contato molto meno, no? Nella realtà, essendo la società italiana nel suo insieme invece dominata dai problemi della realtà agricola, del mondo contadino, della stessa mentalità contadina. Naturalmente questo può essere un'esagerazione dovuta a deformazione, insomma, no? E quando si studia storia agraria, come studio io, i problemi dell'agricoltura, si può anche essere portati ad esagerare nell'altra direzione. Però nell'insieme, statistiche alla mano, è difficile contestare il peso del mondo contadino, della realtà contadina, da tutti i punti di vista. Da tutti i punti di vista. Ma questo è pure un argomento poi di discussione, se crederà. Ecco, venendo a questa struttura, venendo soprattutto alle categorie contadine, alle categorie che formano il mondo contadino italiano in tutto questo periodo, precedentemente e anche successivamente, come ho detto, non è difficile individuare le due grandi aree, l'area settentrionale e centrale, l'area meridionale, dominata la prima non tanto dal mondo contadino proprietario, piccolo proprietario, che sindacalmente non ha mai contato niente, non avendo rivendicazioni da esercitare, quanto piuttosto dominato da altre categorie, la categoria dei coloni, no? E la categoria dei salariati. Nell'Italia meridionale la categoria dominante è stata per molto tempo quella costituita da quella forma del tutto particolare, eterogenea, difficile da definire, di contadino in parte piccolissimo proprietario e in parte legato da contratti di colonia, di affitto, di partitanza, che ne hanno fatto un protagonista minore, indubbiamente, dell'azione sociale, dell'azione sindacale, proprio, secondo me, per questa sua posizione complicatissima, di lavorante su terreno proprio, ma anche lavorante legato alla grande proprietà o alla media proprietà, con rapporti plurimi che ne rendevano veramente difficile, quasi impossibile, come di fatto è accaduto, una difesa sul piano sindacale. Loro mi insegnano che l'azione sindacale è possibile quando c'è una controparte. Se la controparte non c'è, si può bruciare il municipio, si può buttare il podestà o il sindaco dalla finestra, ma la controparte non c'è. E per il contadino meridionale, per il 90% dei contadini meridionali, la controparte non è mai esistita. Perché o era un grande proprietario lontanissimo, sconosciuto, o era un intermediario, come dire, che non riusciva a giocare un rapporto diretto con il contadino, oppure era lo stesso contadino, il lavoratore, intendo, della terra, che per questa pluralità di rapporti esistenti, in sostanza, non riusciva, non poteva esercitare un'azione contrattuale, un'azione rivendicativa, avendo una controparte. Il caso è diversissimo per il bracciante, per il salariato dell'Italia centrale, della Valpadana, della grande affittanza capitalistica, che invece ha una controparte precisa. La controparte precisa è affittabile. La controparte precisa è la proprietà, no? Visibile, interessata tra l'altro all'andamento della terra. Badino, e questa distinzione del tutto superficiale, insomma, semplicemente così fa ricordata, è importante secondo me per rendere conto subito di alcuni limiti, di alcune difficoltà dell'azione rivendicativa, dell'azione sindacale. Perché qui quel che conta è cercare di capire quali sono le esigenze, le istanze dei signori gruppi, cogliendo subito un particolare, che queste istanze delle varie categorie contadine erano difficilmente conciliabili fra di loro. Voglio dire, nella stessa area settentrionale, comprendendo nell'area padana anche l'area emiliana, emiliano-romagnola, quella che poi è la protagonista in fondo di gran parte delle lotte. Quando qui si riscontra la presenza della categoria mezzadrini e delle categorie salariate bracciantili, si scopre immediatamente l'esistenza di categorie che dal punto di vista professionale, dal punto di vista economico e sociale, avevano interessi profondamente diversi fra di loro, non conciliabili al limite. Sarà il grande il tragico dilemma della Federazione della Terra a proposito dei conflitti per le macchine traviatrici, per esempio, il conflitto che divide sanguinosamente i mezzadri dai salariati e dai braccianti su un punto non risolvibile di conciliazione, essendo completamente diverse le posizioni. Quindi rendersi conto di questo, secondo me, è molto importante, perché dà subito un'idea, insomma, tanto dalla complessità, no, dalla varietà di questo mondo contadino, che naturalmente con molta superficialità viene liquidato così, dicendo i ceti contadini. I ceti contadini non vuol dire niente. In un paese come il nostro, tra fine 800 e prima metà del 900, ogni definizione di posizione professionale, di posizione sociale, richiede, secondo me, un'estrema precisione di riferimento geografico, non strettamente formale, giuridico. Dire il mezzadro. Dire il mezzadro per una realtà italiana come quella fino all'Ottocento e primi del Novecento non vuol dire niente se non si stabilisce se è mezzadro di terra povera o se è mezzadro di terra ricca. Così come dire bracciante non vuol dire assolutamente niente se con questo termine si intende comprendere il salariato dalla Valle Padana in Rigua, no? con buoni salari o con modesti salari, ma comunque con un rapporto ben definito, e il bracciante, che so, del Tavoliere delle Puglie o di certe zone dell'Italia meridionale, che vive uno stato di insicurezza, una posizione sociale completamente diversa. No, non insisto ulteriormente su questo punto, che però, ecco, vorrei ricordare ancora che metodologicamente è molto importante, perché noi siamo tentati, per ragioni di comodo, a semplificare, e naturalmente qui se semplifichiamo rischiamo di non capire più niente, cioè rischiamo di non capire l'intrinseca difficoltà dell'azione, che essendo azione organizzativa, associativa, deve comporre, deve aggregare, ma per aggregare ci vogliono elementi comuni minimi, altrimenti l'aggregazione non può riuscire. Vero che mi si può replicare che il mondo contadino meridionale trova una soluzione del tutto peculiare ai suoi problemi e all'immigrazione, e questo è pur vero, che depotenzia l'azione sindacale, l'azione rivendicativa, ma non è tutto qui la spiegazione. La spiegazione è anche nella difficoltà oggettiva, intrinseca, strutturale di questo mondo contadino, soprattutto meridionale, che non riesce a ricomporsi, che non riesce a trovare terreni comuni di intesa e di azione. Che non sia quello politico, naturalmente, quello ideologico, ma qui si sta parlando di un altro terreno, cioè quello degli interessi economici e degli interessi professionali. Ecco, precisato questo, cioè dato questo come premessa, insomma, io comincerei con, proprio seguendo un criterio cronologico, ad individuare alcune grosse questioni, no? Che riguardano appunto la storia del mondo contadino italiano, del movimento contadino italiano in questo ventennio che abbiamo preso come oggetto delle nostre considerazioni. Un primo gruppo di questioni riguarda, direi, gli antecedenti del movimento contadino organizzato che si ha con l'inizio del Novecento, con il 901, con la Federazione della Terra. Ed è il complesso delle questioni che riguarda, vuol dire, il ritardo con il quale il mondo contadino italiano si organizza. Cioè, sarebbe del tutto contraddittorio sostenere da una parte che l'economia, la società italiana, è per larga parte della sua storia di un secolo, insomma, almeno per tutta la prima metà, 860, primi del Novecento, è una società ed un'economia profondamente agricola, e constatare poi che il mondo contadino, no, nelle sue articolazioni, in pratica per un quarantennio non riesce a trovare una sua struttura organizzativa, una sua espressione sul piano sindacale e rivendicativo. E la spiegazione di questo è in parte possibile allo stato degli studi, allo stato delle conoscenze. Badino che io tendo a distingo subito quello che possono essere i fenomeni appartenenti alla storia sociale, voglio dire le proteste contadine, i moti contadini. Di questi la storia italiana tra il 60 e la fine del secolo è ricchissima. La protesta contadina c'è, dai moti del macinato in su, non passa anno in cui non ci sia una manifestazione del malcontento contadino, il malcontento contro il sistema tributario, il malcontento contro il peggioramento repentino delle condizioni di vita. Per una popolazione che viveva a livelli di sussistenza bastava molto poco avere un peggioramento. Io parlo di un'azione, come dire, che si organizzi, che dia luogo a fenomeni associativi, che dia luogo a fenomeni rivendicativi di natura contrattuale, latamente contrattuale. Questi indubbiamente mancano. O perlomeno si accentrano in pochi anni, quegli anni 80, soprattutto la prima metà degli anni 80, in connessione con il ripercuotersi in Italia della grande crisi agraria e del peggioramento quindi delle condizioni di vita in alcune aree. Però di fatto non è del tutto neanche chiaro come sia avvenuto questo peggioramento. Che ci sia stato, noi lo rileviamo attraverso alcuni indici indiscutibili, la diffusione della pellagra. Basterebbe questo per capire che il mondo contadino italiano tra l'80 e la fine del secolo ha peggiorato le sue condizioni di vita. Non esistessero altri parametri sui quali misurare questo è un punto sicuro. Però come la grande crisi agraria ha peggiorato le condizioni del mondo contadino italiano? Che loro sanno, la grande crisi agraria è stata una caduta dei prezzi. Ora, per un'agricoltura, per un mondo contadino che non conosce il mercato, perché ecco di nuovo il problema della conoscenza della struttura sociale. Se il mondo contadino italiano è formato prevalentemente di mezzadri di coloni, i mezzadri di coloni non vanno sul mercato a comprare il grano e non lo vendono neppure. Il colono è mezzadro e pagato in natura. Quindi per lui che il prezzo salga o il prezzo diminuisca non conta assolutamente niente, perché non è uno che va sul mercato. Noi abbiamo qualche barlume, possiamo individuare in parte il meccanismo di peggioramento. Non a caso il meccanismo di peggioramento opera dove? Dove c'è lavoro salariato. Perché? Ma non solo, perché questa è la complicazione. Il peggioramento c'è dove c'è lavoro salariato. E qui è chiaro, il fittabile che vende grano sul mercato, lui vende grano sul mercato, ricava unitariamente meno, che cosa fa? Cerca di produrre di più. Detto in altri termini, sfrutta di più il salariato. Lo fa lavorare di più. Questo è un peggioramento. O cerca di diminuire, di comprimere i salari. Non nella parte nominale, nella parte monetaria, ma nella parte in natura. Il meccanismo è abbastanza chiaro. È molto meno chiaro nelle zone asciutte, nelle zone di agricoltura non irrigua, dove c'è il colono del Vimercatese, della Brianza, del Monzese, per esempio, che vede peggiorate le sue condizioni di vita. Ma come? Ecco, qualche indagine fatta, qualche scandaglio fatto in questa direzione, cosa dice? Dice che qui il proprietario, che in genere è un proprietario borghese che vive in città, no? Un piccolo medio proprietario, è riuscito attraverso il meccanismo del contratto a pretendere una parte maggiore di prodotto. Ecco il peggioramento. Il contadino che vive di polenta deve consegnare un maggior quantitativo di grano intorno, le sue condizioni peggiorano. Oppure, come facevano i grandi enti proprietari di tutta l'area settentrionale, come i grandi ospedali, per esempio, grandi proprietari terrieri, pretendevano dal colono le cosiddette giornate gratuite. Il colono era tenuto a dare al proprietario un certo numero di giornate di lavoro, che normalmente erano piuttosto contenute, e qui aumentano perché il proprietario cerca di recuperare per questa strada quello che perde attraverso la caduta dei prezzi. Ecco, tutte queste cose che cosa hanno provocato? Hanno scatenato indubbiamente quella serie di scioperi, appunto del decennio 80, che sono passati alla storia come gli scioperi della boie, grandi processi di Venezia, che hanno rivelato all'Italia incredula, insomma, alla classe dirigente una certa condizione contadina, hanno provocato questi scioperi, indubbiamente, non hanno però fatto scattare alcun meccanismo di tipo associativo, se non in entità modestissima, il mantovano, il cremonese, sono poche le esperienze che si riescono a fare nella fase, diciamo, 880, fine del secolo. Boh, naturalmente questo di per sé non sarebbe un grande problema, questo ritardo. Vedranno che, a mio parere, crea invece delle questioni interpretative, no? Non di poco, se si tiene presente quello che accade al 1900. Questo esplodere, come dire, di scioperi, gli anni 901-902 sono gli anni di massima esplosione delle rivendicazioni, persino superiori a tutto l'arco giolittiano. come partecipazione paragonabili a quelli del primo dopoguerra, che hanno bisogno di una spiegazione, come dire, a monte, insomma. Una spiegazione a monte che adesso cercherò di indicare, almeno come vedo io le cose, ma che mette in evidenza l'importanza del capire tutto quello che si era accumulato nel periodo precedente. Per concludere su questo punto, io credo che si possa, non ho sentito la relazione di Malacorda, mi dispiace, per colpa mia, naturalmente, anche se conosco di quello che si sta dibattendo e discutendo su questa fase qui. Io credo che si possa dire che la maturazione del mondo contadino italiano in questa fase non avviene, maturazione sociale, meglio, è una maturazione politica più che derivante da un'esperienza di tipo associativo, di tipo rivendicativo, che non c'è. E questo spiegherebbe in parte la capacità di forte organizzazione, di forte rivendicazione agli inizi del Novecento. Però questa è una fase che va, questo trentennio almeno, 70-75, fine del secolo, secondo me è veramente un periodo, una fase che va ancora studiata, e dal punto di vista delle condizioni, e dal punto di vista delle esperienze che ci sono state, forse non tutte conosciute. La stessa esperienza, per esempio, di collegamento tra il partito operaio milanese, lombardo, no? E le agitazioni nell'asciutto, i collegamenti che ci sono stati proprio di sostegno organizzativo, no? Che poi cadono, perché cade anche il partito operaio. Il decennio più oscuro da questo punto di vista è proprio il decennio 90, per cercare di cogliere, insomma, no, quello che può essere accaduto nel mondo contadino italiano dal punto di vista almeno di un'aspirazione all'associazionismo e all'organizzazione. E veniamo così, e veniamo alla fase più importante, che è la fase, no, chiedo scusa, forse posso approfondire ancora una questione che è relativa a questa fase qui, prima di passare a quella 900-914. Nello schema loro trovano le cose che io ho detto prima, e in più trovano una cosa sulla quale insisto un momento. E anche qui il discorso si allarga ad altre competenze che non sono strettamente la mia, e in modo particolare quello che può essere stato, come dire, il peso, l'influenza dell'azione, della propaganda, diciamo così, di certi ideali, di certi orientamenti in campo socialista e in campo cattolico. Io qui un po' drasticamente ho messo che uno dei motivi di debolezza del mondo contadino italiano in questa fase, perché questo è il punto, la sua debolezza sul piano associativo ed organizzativo, il punto è questo da chiarire. E uno certamente delle spiegazioni è nella insufficiente, inadeguata comprensione dei problemi agrari italiani da parte del mondo socialista, della cultura socialista. Un tema complicatissimo. Io sto ai giudizi, per esempio, di Zangheri, che stimo molto come storico economico e come storico sociale, e quel lavoro che fino a questo momento è fondamentale per queste questioni, lotte agrarie in Italia, con tutta la ricostruzione del dibattito, no, all'interno del mondo socialista sulle questioni agrarie, è molto rigido. Non ho qui presente il passo, perché naturalmente ho lasciato il libro a casa, ma c'è una conclusione molto precisa, che va rivista, forse va approfondita. Il mondo socialista non possiede la realtà agricola italiana, non la possiede nella sua struttura, nella sua composizione, giudica secondo certi schemi, se gli schemi sono rigidi, la realtà invece è diversa, è articolata e contraddittoria, la capacità di guida, la capacità di interpretazione quindi non c'è. E questo è un versante. L'altro versante, che in questa direzione qui è importante, e quello rappresentato dal grado di controllo e di influenza cattolico, perché questo c'è. Questo c'è e segue una via che a rigore non appartiene alla storia del movimento sindacale, perché è la via della risposta cattolica ai problemi del mondo rurale italiano, ma non di tipo rivendicativo, ma di tipo solidaristico. Cioè, noi sappiamo oramai abbastanza bene, anzi scopriamo tutti i giorni testimonianze nuove, di una presenza cattolica in molte aree, soprattutto settentrionali, che è una presenza nel mondo contadino con esclusione però del mondo salariato, quindi il mondo della colonia, della mezzadria, della piccola e media proprietà, ed è un tipo di presenza diretta a rispondere ad esigenze economiche di questo mondo, che sono esigenze vitali, delle campagne italiane era diffusa l'usura. L'usura era diffusa nel Trentino, ma era diffusa in tutta l'area, perché l'usura era il rimedio naturale tragico alla carenza continua, sistematica, secolare di mezzi finanziari. Un matrimonio, un funerale o un incidente qualunque creava nella famiglia contadina un deficit secco. Il deficit poteva essere parzialmente riparato con il prestito. Il prestito da parte di chi non possiede niente, sono le sue braccia, è il prestito per usura, non ce ne sono altri. Non è il prestito su ipoteca, perché non c'è niente da ipotecare. Cioè, c'è la vanga da ipotecare, c'è la cariola, non c'è niente. Quindi è il prestito ad usura. Bene, il mondo contadino ha quindi queste esigenze. L'azione cattolica, la risposta cattolica è una risposta corrispondente. Le casse rurali, le piccole banche, basti pensare a Bresciano, a Bergamasco, tutto il Veneto, parte del Piemonte, della Lombardia, Marche, Umbria, in parte anche in Toscana. Scendendo giù, il fenomeno è meno conosciuto, probabilmente meno diffuso, però è una risposta. Mi interessa solo, non voglio entrare adesso nell'esame del fenomeno in sé, anche se per me è una spiegazione di molte cose che avvengono in questo periodo nella realtà agricola, però mi interessa sottolineare questo, che la risposta che viene data da parte del mondo cattolico, il clero, il basso clero, le organizzazioni, insomma, è una risposta che, come dire, dà soluzioni, prospetta soluzioni che non sono soluzioni di tipo rivendicativo, non portano alla lotta, ma portano a trovare soluzioni immediate, no? Risposte immediate a bisogni di vita, appunto, di queste popolazioni. Questo può avere in qualche modo influito, è una domanda che bisogna porsi, insomma, può avere influito in qualche modo nel creare atteggiamenti o nel ritardare, questo è il termine che viene usato, insomma, nel ritardare l'acquisizione di una coscienza di tipo rivendicativo, di lotta sindacale in senso stretto. Io sinceramente non avrei una risposta molto sicura, insomma, a questa domanda, perché proprio riandando a quella che è la struttura sociale dell'agricoltura italiana e alla posizione pratica, reale del mondo contadino, se io penso a un piccolo colono, io penso a un piccolo mezzadro, e riscopro la sua difficoltà anche in una fase successiva a mettersi sul piano rivendicativo, perché in età giolittiana non sono i mezzadri e i coloni a scioperare, sono soprattutto i braccianti, per dei limiti precisi, che il mezzadro quando sciopera sa una cosa molto chiara, che sciopera anche sulla sua metà. Quando decide di non tagliare il grano o di non raccogliere il grano turco, non raccoglie anche la sua metà di grano turco. E questo è un limite all'azione, insomma. No? Quindi, però il problema indubbiamente c'è, insomma. Il problema cioè è di soluzioni, di risposte a problemi del mondo contadino che sono peculiari e che stanno fuori, come dire, dalla logica di tipo sindacale e di tipo rivendicativo. Ecco, passando adesso alla fase 900-914, che è quella costitutiva, no, del movimento contadino in senso stretto. Ora qui ci sono alcuni fatti che io richiamo semplicemente, perché sono, non è su questi che voglio insistere semmai su certi meccanismi e certe logiche che poi dominano questi fatti nel periodo. I fatti quali sono? Sono di due tipi, collegati fra di loro. Da una parte, un prorompere delle rivendicazioni, soprattutto nell'area padana, che hanno come protagonisti salariati e braccianti, obiettivi di natura strettamente sindacale, miglioramento dei salari, modifica anche della struttura del salario, che uno degli obiettivi di lotta non fu soltanto l'innalzamento del livello salariale, ma anche il passaggio dal salario misto moneta-natura a un salario solo in moneta. Quindi rivendicazioni, come dire, che prorompono nei primi anni del Novecento, hanno un'interruzione, un declino successivo, poi riprenderanno e domineranno per tutto il resto del periodo, dal 5, dal 6 in avanti, e questo è il primo ordine di fatti, abbastanza studiati e abbastanza conosciuti per le rilevazioni anche ufficiali del fenomeno, e dall'altra parte il formarsi di una struttura stabile, organizzativa, la Federazione della Terra, no? Che ha un momento, come dire, di grande sviluppo corrispondente agli scioperi, no? Alla curva, no? All'ascesa dei scioperi, poi ha un momento di difficoltà che corrisponde al venir meno della lotta stessa, ma poi tende a consolidarsi e sarà una delle strutture sindacali italiane più stabili fino all'avvento del fascismo, fino all'avvento della dittatura. aggiungerei anche qui un piccolo punticino a proposito dei fatti, insomma, no? La Federazione della Terra è la grande struttura organizzativa, però non è la sola struttura organizzativa. Dopo cercheremo di trovare una spiegazione. Accanto alla struttura organizzativa predominante, che sarebbe la Federazione della Terra di guida socialista, in alcune aree cominciano a formarsi, sul presupposto del collegamento con gli interessi contadini realizzati precedentemente, anche le leghe cattoliche. Basti pensare al Bresciano, basti pensare al Bergamasco ancora, all'Alto Milanese, alcune zone del Piemonte, alcune zone del Trevigiano, il Cremonese, certamente, nelle Marche. Qui ci sono organizzazioni di tipo sindacale arrivate e costruitesi su quel collegamento con la società rurale compiuto nella fase precedente. Ora, io sui fatti, sinceramente, non rimando alla letteratura, alle conoscenze che ci sono, insomma, perché non è il caso. Mi interessa invece sottoporre alla loro attenzione e alla discussione, naturalmente, una grossa questione. Anzi, secondo me, la vera questione che comincia a presentarsi nella storia del movimento contadino italiano e della sua organizzazione, cioè la sua intrinseca debolezza. Sentivo l'altro giorno, ma poi intervenire diventa sempre una cosa, cioè, la ragione della grande, della sconfitta poi successiva alla prima guerra mondiale. Ecco, secondo me le ragioni della sconfitta vanno ricercate nelle ragioni della debolezza. Al di là di una grande capacità di aggregazione, che pure c'è stata, questo grande miracolo che viene compiuto nelle campagne italiane, per cui attorno all'organizzazione, a cominciare dalla Lega, più periferica, insomma, si forma veramente un grande movimento associativo. Ha ragione Zangheri, comparativamente nessun paese europeo, e non solo europeo, ha avuto un'esperienza come la nostra, di capacità di aggregazione, chiedo scusa di una cosa, di un mondo contadino che viveva a livello di sussistenza e in condizioni, come dire, culturali praticamente zero, insomma, dall'analfabetismo molto diffuso, inesperienze, insomma, non collegamento, no, col resto del mondo. Nonostante tutti questi limiti oggettivi, questa capacità di organizzarsi. Ecco, ma una capacità di organizzarsi che indubbiamente ha avuto delle capacità anche creative, no, di strutture nuove, alla ricerca di una forza, ma anche ha tenuto dentro di sé una debolezza sostanziale, che non è, come cercherò di dimostrare, una debolezza del movimento, ma è una debolezza dell'azione sindacale nelle campagne, nel contesto economico ed agricolo italiano. Che cosa accade? Secondo il mio modestissimo parere, e ripeto, con largo margine di discussione, loro sanno che la geografia delle grandi rivendicazioni è praticamente... mette l'accento su che cosa? Sull'area dell'azienda, della fittanza capitalistica. No? Il lavoro salariato è il protagonista di queste azioni. I risultati di questa azione tipicamente sindacale furono indubbiamente rilevanti, non solo perché Giolitti in Parlamento porterà dei dati sul miglioramento dei salari conseguito nell'area che stiamo esaminando. Un dato è certo, che con l'aumento dei salari nominali aumenta il costo del lavoro nell'area. Che effetto ebbe tutto questo? Secondo me ebbe un effetto non dominabile da parte del movimento contadino. Perché l'aumento dei salari, ci sono delle testimonianze, purtroppo non studiate come meriterebbero. E ci sono alcuni pareri di agrari, no, di rappresentanti dell'agraria, come si dice, o anche, come dire, di economisti agrari del tempo. La meccanizzazione in Italia non ha mai compiuto tanti progressi come negli anni di grandi rivendicazioni salariali. La meccanizzazione da noi era molto indietro, perché il costo del lavoro era così basso che non conveniva sostituire con le macchine, con tutti i risultati negativi che questo comportava. La meccanizzazione vuol dire l'introduzione delle macchine agricole, sostitutive del lavoro, compie un notevole passo dopo il 901 e il 902. Il risultato di tutto questo quale fu? Fu un tragico ritorno all'indietro, insomma, come dire, di un problema nuovo, cioè vecchio ma che si drammatizzava, che era il problema della disoccupazione, che era il problema dell'esuberanza, vuol dire di manodopera, che gli incrementi salariali provocavano. Chiedo scusa, nessuno venga in mente, perché io non sono nato ieri, che io stia teorizzando l'errore di chiedere aumenti salariali perché questo provoca dei riflessi, perché io sono di mestiere, faccio lo storico, io vedo come vanno le cose, dopo quel che è accaduto, anche perché quelli che l'hanno fatto sono morti, a me non me ne frega niente se hanno fatto bene o hanno fatto male, io cerco solo di capire quel che è successo, senza stabilire giudizi morali o di altra natura. Io sto dicendo che per cercare di capire le difficoltà del movimento contadino italiano, io sono in presenza di un'azione rivendicativa salariale che consegue gli obiettivi. Il costo del lavoro aumenta. L'azienda agraria italiana come riequilibra i conti? Perché anche qui bisogna essere chiaro che bisogna calcolare la differenza tra i costi e i ricavi. I costi da una parte crescono e per mantenere i ricavi, l'equilibrio dei ricavi, che cosa si fa? Si meccanizza. La meccanizzazione cosa comporta? Comporta l'esubero di manodopera. Va bene? Uno dice che questo è triste, che questo è tragico, però questo accadde e questo ritornò come un punto di debolezza del movimento contadino. E questo spiega perché negli anni immediatamente successivi alle grandi rivendicazioni, il movimento contadino italiano dell'area padana, l'unico che conta, perché è l'unico che ha fatto storia, ebbe un obiettivo più importante delle rivendicazioni salariali, che fu il monopolio, vuol dire, dell'offerta di lavoro. Il monopolio del mercato, il monopolio del mercato del lavoro. Tragicamente questo obiettivo però presupponeva una cosa, presupponeva più di una cosa, presupponeva che esistesse un mercato del lavoro, e quindi una possibilità di incontro tra domanda ed offerta. Presupponeva anche, come dire, che ci fossero possibilità di scaricare altrove l'esubero di forza lavoro. E questo non c'era. E questo non c'era. La grande debolezza e nello stesso tempo lo stimolo alla fantasia, alla capacità creativa, organizzativa, si colloca qui. Perché da una parte, da questo momento, ogni rivendicazione salariale non fece che accrescere lo stock di disoccupazione. E quindi indeboliva il potere contrattuale delle leghe. Al limite le rendeva. Loro non dimentichino una cosa, che nel 1920, l'azione sindacale fascista, pardon, l'azione di violenza, ebbe un obiettivo: distruggere il monopolio del mercato. Questo fu l'obiettivo fondamentale, perché quel giorno che era distrutto, questa la Lega non esisteva più, perché quel giorno che la controparte avesse potuto assumere lavoratori crumiri o non crumiri al prezzo che gli faceva comodo, perché la Lega non era più in grado di rappresentare il collo di bottiglia attraverso il quale doveva passare l'offerta e la domanda di lavoro, non c'era più possibilità di controllo. E questo accadde. Questo è il mio modestissimo parere. Questo accadde perché dietro c'è questa realtà ben precisa. Perché però questo fu anche uno stimolo all'inventiva? Perché il mondo contadino italiano organizzato, Argentina Antonelli, queste cose per esempio le ha dette, le ha capite, gli altri capivano un po' meno. A un certo momento, se questo era il problema, cosa bisognava fare? Bisognava trovare occasioni di lavoro. Bisognava al limite razionalizzare le possibilità di lavoro esistenti. Io si è parlato dell'imponibile di manodopera. L'imponibile di manodopera in termini sindacali è una cosa da poveretti. Non c'è, come dire, non c'è obiettivo più miserabile, insomma. Perché non? Sì, ha un puro significato assistenziale. Io obbligo un imprenditore che per lavorare un ettaro ha bisogno di due contadini, gliene metto quattro. I risultati quali sono? I risultati che se ho tanta forza da imporre quattro, gliene impongo quattro, ma i costi sono raddoppiati. Non ci sono scherzi su queste cose. Però questo diventa un obiettivo, non si può fare altrimenti, ma è un obiettivo debole. È difficile da difendere. Ci sono delle cose più costruttive. La fitanza collettiva. La fitanza collettiva è già una cosa diversa, perché si sostituisce l'imprenditore. La Lega si costituisce in cooperativa, la cooperativa stipula un contratto direttamente col proprietario e gestisce direttamente, no? Gestisce direttamente l'attività agricola, elimina l'imprenditore, eliminando quindi l'imprenditore permette una miglior divisione, come si dice, della torta. E questo è già un segno, come dire, di un'azione. Naturalmente ce ne furono anche delle altre, di segno meno limpido, il chiedere i lavori pubblici, il pesante impegno, come dire, sul piano politico per ottenere occasioni di lavoro aggiuntive, e le occasioni di lavoro aggiuntive non potevano essere che i lavori pubblici per manodopera contadina, non c'era molto altro. c'è il sostegno cooperativistico, c'è la conquista, come dire, dell'amministrazione comunale, si forma, come dire, un tessuto abbastanza collegato, no? Abbastanza collegato. Però è difficile negare che il punto di debolezza restava, perché tutto doveva tenersi rigidamente. Basta una crisi, basta una difficoltà momentanea di natura congiunturale e subito si scricchiola questa possibilità di controllo di assoluto, che doveva essere assoluto, la violenza, la necessità, come dire, di non avere pietà per il crumino. Perché non si può avere pietà per il crumino? Perché il crumino, che pure è un poveraccio, come dire, che ha bisogno di lavorare, perché viene da, però rappresenta una minaccia per il controllo del mercato del lavoro. E secondo il mio modesto parere, dentro a queste questioni qui, con tutti i corollari naturalmente, sta anche la spiegazione, in questa debolezza, che è una debolezza che si ricollega alla struttura dell'economia e dell'agricoltura italiana, stanno anche quei fenomeni che ho notato con interesse ieri sono stati esaminati, il problema del pluralismo sindacale, cioè il problema dell'emergere di strategie, di orientamenti, di sindacali profondamente diversi fra di loro. Perché è il mondo contadino, è la realtà contadina con questi suoi limiti alla azione, che suggerisce, come dire, prospettive di azione diverse, a parte che è la sua struttura che le suggerisce. Perché qui ci sono obiettivi di miglioramento che sono solo validi per il mondo salariato. Il mezzadro e il colono qui non ci sono, perché l'obiettivo del mezzadro e del colono è completamente diverso. Al limite l'obiettivo del mezzadro e del colono è di fare a meno del lavoro bracciantile, quindi in parte di meccanizzare per conto suo, no? E quindi di non ricorrere a quel tipo di apporto e mettendosi in conflitto. Però i suoi obiettivi, che maturano e cominciano a venire avanti in questa fase, ma matureranno soprattutto nel primo dopoguerra, gli obiettivi, voglio dire, del mondo mezzadrile, del mondo colonico, del piccolo affitto, sono completamente diversi e in questa fase indubbiamente sono trascurati. Sulla diversità delle posizioni sindacali, io adesso qui non vorrei, anche perché non vorrei entrare troppo nel dettaglio, anche perché è un punto questo che ritengo troppo poco studiato, troppo poco approfondito. Io devo dir loro che a me interessa soprattutto una cosa, a me come studioso di queste cose, interessa cogliere quel pluralismo che si è accentrato sui due poli di dominio del mondo contadino, quello socialista e quello cattolico. Perché non c'è dubbio che tra il 906 e il 914 è venuta avanti, sia pure con difficoltà in posizione di minoranza, un orientamento delle lotte sindacali nelle campagne, di ispirazione bianca, come si diceva, che rispondeva ad una logica completamente diversa e che porterà, se non altro, a questo risultato, verificabile sulla carta geografica, che il mondo salariato, dei salariati, diviene sempre più, con l'eccezione cremonese migliolina, di dominio socialista. Il mondo mezzadrile e colonico diventa di dominio cattolico, invece. Perché diverse sono le posizioni, diversi sono gli obiettivi e le istanze delle categorie, e diverse sono anche gli orientamenti sindacali, vuol dire che tentano di interpretare queste diverse esigenze. E per non abusare, no, bisogna passo quindi alla terza fase che è quella che comprende la guerra e soprattutto gli anni dell'immediato dopoguerra. Ecco, qui per coerenza, come dire, è chiaro che io mi sento di sostenere che da una posizione di debolezza di quel tipo, quella che ho descritto, strutturale, no? Del movimento contadino, nonostante i suoi successi, questo sia chiaro, nonostante i miglioramenti salariali indubbiamente conseguiti, nonostante i miglioramenti normativi indubbiamente conseguiti, nonostante la forte mobilitazione e aggregazione raggiunta, nonostante la creazione di una solida struttura, o apparentemente solida struttura organizzativa e associativa nelle campagne, il movimento contadino arriva all'appuntamento del primo dopoguerra con questa debolezza di fondo. Ora, tutti sanno le vicende economiche italiane del 18-19-20 e capiscono subito una cosa, che l'andamento di queste vicende economiche sembrava fatto apposta per aggravare la debolezza, perché le difficoltà del primo dopoguerra sono sotto due segni, disoccupazione e inflazione. Ora, questi sono due punti che il mondo contadino organizzato italiano non poteva affrontare, e non poteva affrontare se non, come dire, trasferendo l'azione sul piano politico, come fece, quindi sul piano rivoluzionario, sul piano del cambiamento, perché sul piano strettamente sindacale, le possibilità erano praticamente nulle. Io qui ho cercato, come dire, di mettere in successione alcune delle vicende. L'azione sindacale dopo il 18 ci fu, ma fu un'azione puramente difensiva. E l'azione, per esempio, in campo salariale, sia per i lavoratori dell'industria che dell'agricoltura, non è un'azione di miglioramento, è una pura azione, è un tentativo di difesa del livello salariale, che tra l'altro non riesce. Ci furono anche altri obiettivi, tentativi di mettere in contratto, con la garanzia contrattuale, l'imponibile di manodopera, il collocamento di classe, la limitazione dell'uso delle macchine. Queste cose si tradussero in uno sviluppo contrattuale che ci fu. Però quello che non deve sfuggire alla ricostruzione sintetica è che tutto questo non poteva modificare il rapporto di forza esistente. Questo spiega il drammatizzarsi della questione di fondo che la guerra aveva suscitato e che il dopoguerra fa esplodere il problema della terra. Cioè, in pratica, credo di poter così proprio riassumere il pensiero in questi termini qui. Nella misura in cui l'azione di miglioramento non era possibile, o dava risultati modestissimi, non si dava che una possibilità, quella di rovesciare la questione e di impostare il problema del mondo contadino, della sua evoluzione sociale, della sua trasformazione, nei termini che per l'appunto il mondo socialista e il mondo cattolico imposteranno dopo il 19. Gli uni con la collettivizzazione della terra, propugnando il passaggio al demanio di tutta la superficie coltivabile e la sua coltivazione, la sua gestione in forme molto vaghe di tipo cooperativistico, da quello che si poteva capire dai programmi, e dall'altra parte la grande divaricazione, che prima non esisteva, tra mondo cattolico e mondo socialista sui problemi del mondo contadino, e invece l'organizzazione cattolica che va verso la conferma e la diffusione della piccola proprietà contadina. E questo è il momento nel quale la divergenza, no, di orientamento sindacale e politica è radicale, perché da una parte, ripeto, per l'organizzazione socialista il problema della terra ha questa soluzione, la soluzione della collettivizzazione della terra, scavalca quindi i problemi sindacali, non è più questione di migliorare un rapporto piuttosto che un altro, aumentare un salario o modificare un paragrafo normativo, è il problema di un rapporto diverso. E dall'altra parte invece l'organizzazione contadina cattolica, che in modo molto articolato, perché per esempio proponendo miglioramenti dei patti mezzadrivi al punto da non rendere più il patto mezzadrivo conveniente per il proprietario di fondi dati a mezzadrivo, e in Toscana, in Emilia Romagna e poi ancora nelle Marche, nell'Umbria, questo venne perseguito con grande decisione. Quando si introducono certi istituti nel rapporto di mezzadrivo, il diritto di prelazione, per esempio, c'è poco da fare. Tu sei il proprietario del fondo, io sono il mezzadro coltivatore, io chiedo un miglioramento continuo del rapporto con lo spostamento di dire meno del 50-50, la mezzadrivo vuol dire metà a metà, quindi con spostamenti che non rendono più conveniente a te la proprietà della terra. E inserisco nel contratto il diritto di prelazione: quando tu vendi, devi vendere a me. È chiaro che il mezzadro che agisce, che preme sul proprietario, ha un obiettivo preciso, che è quello che si verificherà, il passaggio dalla posizione mezzadrile alla posizione proprietaria. I calcoli che sono stati fatti, tra il censimento dell'11, del 21 e quello della fine del decennio 20, vedono l'aumento della categoria dei proprietari, dei piccoli proprietari, la diminuzione, io qui ho portato le statistiche, sì, è probabile. Certo. Però l'indicazione qui è abbastanza, diminuiscono, se loro vanno alla prima pagina dello schema, loro vedono che la categoria dei lavoratori, cioè di non proprietari, che come dire, vengono il proprio lavoro a una qualsiasi figura diversa, diminuisce fortemente e aumentano fortemente i conduttori di terreni propri. Quindi, ritornando al nostro periodo, qui è chiaro, insomma, che sulla debolezza preesistente si determina una situazione di non sostenibilità di un'azione rivendicativa in termini tradizionali. Si prospettano soluzioni di tipo diverso, che sono quelle o della collettivizzazione o della formazione di piccola proprietà. Le due forze sindacali si dividono nettamente su questo terreno. La realtà finale è una realtà che non si può dire abbia dato ragione all'indirizzo cattolico, perché sotto il processo, come dire, aveva altre motivazioni. Certamente il passaggio della formazione di nuova piccola proprietà era dovuto anche a quello che Serpieri ha dimostrato, l'arricchimento di certe categorie contadine durante la guerra, in conseguenza della guerra. La disponibilità di moneta, la disponibilità di liquidi, no? Attraverso il mercato nero, attraverso varie forme, come dire, di arricchimento che certe categorie contadine conseguono durante la guerra negli anni immediatamente successivi, favoriscono questa operazione, perché è chiaro che se c'è passaggio di proprietà c'è chi vende, ma c'è anche chi è in grado di acquistare la terra. Quindi già questo fa capire che l'evoluzione, insomma, svuota di significato l'azione sindacale come tale. Cioè l'evoluzione naturale, no? Il portato dell'operare di tutti questi fattori non giocano più sul rapporto di lavoro, sulla possibilità di migliorare il rapporto contrattuale, giocano su una trasformazione di natura strutturale. C'è poi qui un punto che ho già fatto accenno, ed è che oltre alla debolezza che si determina e si chiarisce nella fase giolittiana, oltre all'approfondirsi di questa debolezza, no, durante i primi anni del dopoguerra per inflazione e disoccupazione, il venir meno del controllo, del monopolio sul mercato del lavoro da parte della Lega, venir meno attuato violentemente, no? Da parte dello squadrismo fascista, è tra le spiegazioni fondamentali del collasso, della crisi, no, del movimento contadino in questi anni, che lo porta praticamente al dissolversi. Ecco, io ho ancora brevissimamente da accennare in questa ricostruzione, che, come hanno visto, mirava soprattutto a sottoporre quelli che secondo me sono punti di riflessione e di indagine, più che non le certezze, insomma, i grandi schemi interpretativi, l'elenco piuttosto delle questioni. Ecco, ancora qualche cosa, se permettono, visto che siamo tutti interessati a questi problemi e ne facciamo oggetto delle nostre fatiche e dei nostri interessi di ricerca e di studio. Ecco, io qui ho ritenuto opportuno, come dire, insistere sullo stato non soddisfacente di queste conoscenze che abbiamo, sulla necessità di approfondirle, ecco, indicando, per dire, alcuni settori, alcuni punti, insomma, no, che a mio modesto avviso meritano la nostra attenzione, meritano la ricerca approfondita. Io credo che in primo luogo noi dobbiamo cercare di capire questo mondo contadino nelle sue condizioni di vita, insomma. Gli studi sono arrivati, sì, ad sfruttare certi materiali. L'inchiesta Iacini è fin troppo nota, insomma, è fin troppo saccheggiata, ma non esiste solo l'inchiesta Iacini, c'è un materiale ricchissimo. Se è vero, come è vero, che questo è un paese agricolo fin quasi a metà Novecento, la sua letteratura, vuol dire, la sua documentazione è documentazione di mondo contadino, è documentazione di realtà agricola. È un invito, come dire, a studiare certamente il mondo operaio e la condizione operaia, ma è un invito soprattutto a studiare sotto un profilo, se permettono, per esempio. Io ho letto molto attentamente, come ciascuno di loro, quel lavoro di Stefano Merli sulla fabbrica, sul lavoro di Fabio. È una cosa interessante, appassionante, si coglie la passione di chi l'ha scritto, l'amplissima documentazione, solo che sembra una cosa scritta per un'Italia che, a mio parere, è mai esistita, perché sembra un'Italia tutta industrializzata, tutta... Quel problema, per esempio, dell'orario di lavoro. C'è l'orario di lavoro nella fabbrica tessile. Ma santo cielo, se uno sapesse come stanno veramente le cose, non si meraviglierebbe di di arrivare a questa conclusione, che siccome il lavoro tessile era svolto dal mondo contadino, il mondo contadino era abituato a lavorare da sorgere al canale del sole. Non è inutile su queste cose farci dei romanzi. Il tragico è che nella fabbrica manifatturiera si lavori con gli stessi criteri del mondo contadino. Questo, semmai, è grave. Più grave ancora che si lavori, come dire, 14 ore. È grave che si lavori 14 ore, ma da un punto di vista interpretativo, uno dice, ma come mai questo accade? Ma questo era il modello, questo era il modulo. Il modulo che si applica anche a un cumulo di altri rapporti e che si capisce solo in quanto si vada, come dire, ai rapporti reali, alla struttura reale, economica e sociale. Il predominio delle condizioni agricole, dei problemi agricoli, impone quindi uno sforzo di conoscenza di questa realtà. Io qui ho messo alcune cose che adesso cominciano, insomma, l'alimentazione contadina, la faticosità del lavoro contadino, i reali rapporti che esistevano tra il proprietario, il colono e il mezzadro. Ma loro sanno che se noi ci limitiamo a valutare solo il lavoro salariato, noi riusciamo a capire sia no l'8 e il 10% del mondo contadino italiano, ma la remunerazione effettiva di un mezzadro non è ricostruibile con gli indici salariali, perché il mezzadro percepiva metà del prodotto. Bisogna trovare il modo di calcolare non solo il valore economico, ma il valore alimentare, il valore di sostegno, no? per la vita del lavoro mezzadrile, del lavoro colonico, perché questo era il lavoro dominante, non quell'altro. Quindi cercare di capire la faticosità, l'alimentazione, le condizioni di igiene, di abitazione, di remunerazione, per capire le istanze che avevano effettive di miglioramento. Ecco, un altro punto che mi permetto di indicare è venuto fuori anche ieri, qui è più diffuso come fenomeno, quello della contrattazione a livello locale, la contrattazione provinciale e non solo provinciale, i patti agrari, come si dice in termini più esatti, la conoscenza della pattuizione in questo campo, dei suoi contenuti e della sua applicazione, perché abbiamo visto qualche giovane di grandi speranze, come dire, buttarsi sui testi contrattuali come se i testi contrattuali fossero l'effettiva realtà dei rapporti. Che se promette tutto quel che si vuole in un contratto, puoi rispettarlo solo al 10%, quel che conta è quel 10%, non quel che sta scritto nel contratto. Quindi andando all'effettiva realizzazione del rapporto tra colono e proprietario, tra mezzadro o affittuario. E poi, come ultimo punto, anch'esso mi sembra di grande carenza, il grado di conoscenza e di consapevolezza che le forze sociali, soprattutto la classe dirigente, ma le forze sociali, cattolici e socialisti, avevano dei problemi dell'agricoltura e del mondo. Perché questa è una chiave, secondo me, interpretativa molto importante per cogliere, come dire, anche la conduzione delle lotte, le prospettive che venivano indicate all'organizzazione contadina e ai suoi obiettivi. Grazie. Faccio una brevissima pausa. Ah, riassunto questo. Non ho riassunto in tedesco. Solito si è fatto un record o vogliamo già stare in pausa? Ma già stare in pausa. 5 minuti in pausa, ma facciamo una breve pausa, sì. Solo di 5 minuti. Sì. E poi faccio il riassunto in tedesco. Facciamo una discussione e poi dopo. Facciamo subito la discussione. Perché dopo l'Agnelli non ce la fa a parlare l'azione stamattina. Ce la fa. Qui deve essere uno sbaglio. Qui, la battitura, di battitura. Perciò il valore finale. Perché qui deve essere 18 e qui 32, perché se si fa così vengono fuori qui 98, no, dai, anche qui 98. Vedi, io l'ho fatto il calcolo. Era un po' un mistero anche per sì, 197, 112, c'è una versione.